perdono. Così si fa nel comodino, c'è una mina e tu se la da sei mila watt. Ho messo via i rimpiattini, dicono non ho l'età. Se si voltano un momento io ci rigioco, perché a me va. Ho messo via un po' di illusioni che prima o poi basta così. Mi ho messo via due o tre cartoni e comunque so che sono lì. Ho messo via un po' di consigli, dicono è più facile. Li ho messi via perché a sbagliare sono bravissimo da me. Mi sto facendo un po' di busto e che mi aspetto, chi lo sa, che posto vuoto ce n'è stato, ce n'è sarà. Ho messo via un po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a mettervi a te. Perché io non riesco a mettermi.